Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. La Roma ha già raggiunto la Fiorentina nelle semifinali di Coppa Italia. Stasera c'è il Milan contro l'Udinese e domani sera, sempre a San Siro, il match clou con Inter-Juventus. Più tardi ascolteremo le voci di Ranieri, di Mihajlovic, la vigilia di Leonardo, quella di Mourinho che sta finendo di parlare, una conferenza stampa come sempre abbastanza vivace quando c'è Mourinho di mezzo. Stiamo smaltendola e tra poco la riascolteremo, ma anche se è mercoledì, oggi come fosse martedì, perché ieri, ricorderete, abbiamo dato ampio spazio, molto gradito dalla stragrande maggioranza degli ascoltatori, al presidente dei veterani del Barcellona, Ramon Alfonseda, e all'iniziativa che è mutuata dai veterani del Barça, il Verona, i reduci del Verona hanno attuato ufficialmente, fondando questa Onlus che si occuperà da qui in poi dei meno fortunati, di quelli che hanno avuto un post carriera meno fortunato tra gli ex gialloblu e non solo tra i calciatori. Ci ha fatto un esempio molto significativo ieri il presidente di questa Onlus, Franco Nanni. Dicevo che è come fosse martedì e dunque bentornato a Fabio Tavegni. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Senti, da dove cominciamo noi il nostro giro d'orizzonte? Io ti butterei lì il nome di Benitez per... Sì. Non solo per un ritratto di Benitez, ma anche per provare a indovinare, perché leggo che Benitez potrebbe arrivare già sin da ora. Insomma, a me sembra un po' fantacalcio. Illuminaci. No, anche a me pare molto difficile, ma non impossibile, nel senso che un contatto c'è stato, nonostante l'agente di Benitez abbia anche ieri alla BBC dichiarato di non aver avuto contatti. Ed è anche probabile questo, può anche essere che la Juventus sia andata direttamente tramite un intermediario, ma non tramite l'agente di Benitez, a parlare con Benitez. L'obiettivo della Juventus, chiaro, evidente in questo momento, è solo Rafa Benitez, e quando dico obiettivo dico allenatore gradito, allenatore di progetto, allenatore di lungo respiro. Tutti gli altri che dovessero arrivare, perché è molto probabile che Benitez adesso non arrivi, sarebbero allenatori di ponte, sarebbero degli allenatori di transito che sarebbero comunque gratificati dal fatto di allenare la Juventus, ma sarebbero anche ben consci del fatto di prendere in mano una squadra, sapendo che comunque a giugno potrebbero dover cedere il timone a prescindere dai risultati. La cosa di Zaccheroni a me ha ricordato molto quello che Zaccheroni fece all'Inter quando prese in mano la squadra da Cooper, la portò in qualche modo, ma ce la fece, alla Champions League, che era l'obiettivo fissatogli dal presidente, fu di fatto confermato da una parte della società, dall'altra invece fu scavalcato da Roberto Mancini, e poi iniziò quella fase straordinaria dell'Inter in campionato. Benitez è evidentemente un eccellente allenatore, è un allenatore che ha lavorato bene, ha speso tantissimo, è un allenatore che potendo gestire il budget lo ha abbastanza prosciugato, sì. È stato a Liverpool dei grandi giocatori, alcuni li ha trovati, alcuni li ha sbagliati. Non ha preso solo grandi giocatori, alcuni li ha sbagliati. È un allenatore che lavora bene sui giovani, è un allenatore che ha una grande capacità comunicativa, è un allenatore che parla italiano. Benitez capisce benissimo l'italiano, lo parlicchia e nel giro di poco credo possa diventare subito molto bravo anche con la nostra lingua. È un eccellente investimento sul futuro, è un allenatore con una grandissima esperienza internazionale. Credo che in questo momento veramente lui e Gusidica siano i migliori allenatori possibili e immaginabili, e quindi credo anche che Benitez sia ragionevolmente l'obiettivo numero uno per un grande club come la Juventus. Dirti che questa sia una stagione felice per Benitez, direi no però. No, infatti insomma, Benitez è a fine ciclo, direi, nel Liverpool, però se ricordiamo com'era il Liverpool, io credo che... Perché è lì, secondo me, che va fatto il parallelo con la situazione della Juventus. Non credo che il Liverpool stesse molto molto meglio di come sta oggi la Juventus quando Benitez arrivò. Forse non proprio conciata così, insomma, però non era certamente quello che poi Benitez l'ha fatto diventare. Ma guarda, il, il, parallelo di adesso è veramente simile, perché tutte e due le squadre sono uscite dalla Champions e tutte e due le squadre avranno grandi difficoltà a centrare il quarto posto, che vuol dire comunque un preliminare, vuol dire comunque fare meno vacanza rispetto agli altri. Prima del ciclo di Benitez il Liverpool era una squadra che vagava un po' alla ricerca di se stessa, di un passato che comunque a livello di Premier League non è mai tornato, perché Liverpool il campionato certo, non ha mai vinto. Di un passato straordinario ma ingombrante in quei momenti. Perché... Non c'è dubbio, con una tifoseria caldissima ma molto esigente, la differenza è che Benitez è arrivato e il suo corso è stato attraversato da un passaggio di proprietà. Tutti sappiamo come in quegli anni, ma anche in questi, la Premier League sia stata rivoluzionata dall'arrivo di magnati, da emiri, da petroldollari, da proprietari americani, quindi si è trovato a gestire anche una situazione difficilissima, perché tra l'altro con due proprietari, con una mentalità certamente non british, anche se anglosassone in quanto americani, sì. Quindi è uno che il fatto suo lo sa, certamente in Italia avrebbe un ruolo diverso, cioè certamente in Italia non avrebbe tutta quella libertà di mercato, non sarebbe lui ad andare a prendere Aquilani ad esempio, dovrebbe certo. Comunque concordare le mosse con chi ha in mano il budget, e credo che comunque sia una figura che lui abbia già ricoperto in Spagna, quella dell'allenatore non manager, e che quindi sia tranquillissimamente in grado di ricoprirla anche in Italia. Sì, per dare uno sguardo a questo turno infrasettimanale di Premier League, anche ieri mi pare che Liverpool brillare no, insomma. No, ieri male, francamente male, un pareggio 0-0 veramente sciatto contro il Wolverhampton, la terzultima in classifica, ma sai, questa è una squadra che senza Fernando Torres fa veramente poco male, non ha grandi armi, ha avuto una fiammata nel due weekend fa, quando ha battuto il Tottenham, grazie soprattutto a Dirk Kuyt, ai due gol di Dirk Kuyt, ma per il resto è una squadra che è massacrata dagli infortuni. Ecco, questo è un altro parallelo importante con la Juventus. Quando devi concedere più delle volte il tuo uomo migliore, che è Gerrard a centrocampo e Fernando Torres in attacco, ecco che il Liverpool diventa una squadra normale. Cioè, il Liverpool è una buonissima squadra a livello di primi 11, quelli che sceglie Benitez, non voglio dire che ci siano 11 titolari e 5 riserve, quelli che sceglie Benitez, gli 11 che mette in campo sono di solito buoni, poi il resto non è di grande livello. Certamente ricorderete che quando abbiamo iniziato a parlare di Champions già a settembre, l'abbiamo detto tante volte, che quest'anno le inglesi sono un gradino sotto il par e il Liverpool era quella meno attrezzata. Certo. Credo che non siamo andati molto lontani dall'averci preso. Fabio, un quesito da un ascoltatore che è riferito all'Italia, ma che mi piacerebbe estendere all'Europa. Mi sfugge il motivo, scrive Stefano da Udine, per il quale in una partita secca di Coppa la squadra più debole debba giocare in trasferta. Non sarebbe più logico in casa per renderla più avvincente? Ma questa è una questione di regolamenti, anche in Italia io ho letto molti giornali che giustamente hanno fatto notare alla Lega l'incongruità di far giocare ad esempio un Milan Novara. Certo. Sarebbe stato forse più interessante un Novara-Milan, ma non tanto sì. Per l'aspetto del pubblico, così, perché credo che i novaresi ricorderanno tutta la vita questa loro trasferta a Milano, una trasferta che molti di loro fanno quotidianamente per venire al lavoro e che per un giorno l'hanno fatta andando a San Siro, non riempiendo, perché ci voleva veramente tutta Novara e forse nemmeno così tanti sono i novaresi, non lo so. Però è stata certamente una giornata fantastica per loro. In Inghilterra funziona al contrario, ma soprattutto perché c'è una diversa cultura. In Inghilterra la sensazione che gli organi federali hanno, o anche la Football Association, è di tentare in qualche modo di far sì che le piccole ogni tanto arrivino fino in fondo. E questo è successo un sacco di volte. E come no? In Italia quasi mai, insomma, certo. Io me ne ricordo davvero poche di squadre venute da anche solo dalla Serie B, tenendo conto che ad esempio loro hanno veramente, con l'FA Cup mettono insieme davvero tantissime squadre, quindi ci può stare che una squadra di League One arrivi molto avanti. Certo. A proposito di coppe, di trofei nazionali, beh, stasera a Manchester c'è un derby, non dico che farà epoca, ma è un derby di quelli di primissimo livello, Fabio. Molto delicato, è la gara di ritorno della semifinale di Carling Cup. La Carling Cup, a differenza dell'FA Cup, si gioca su andata e ritorno. All'andata ha vinto il Manchester City 2-1 con quei due gol di Tevez, e certamente dal punto di vista dell'ordine pubblico la situazione è un po' complicata perché questo è un derby che negli ultimi anni, anzi diciamo pure da molto tempo, è sempre stato abbastanza sbilanciato a favore dello United, forse per la prima volta i citizen cominciano a pensare alla possibilità, non dico di sovvertire il pronostico, che poi in generale il Manchester United avrà comunque una stagione più vincente rispetto al City, però ci credono tanto, e quelli dello United invece non hanno molto gradito quel comportamento di Tevez, sia nei confronti di Ferguson che nei confronti loro, e quindi direi che gli animi sono abbastanza accesi. Non a caso sia la Lega che la Federazione, che comunque le maggiori autorità inglesi, hanno chiesto ai calciatori di essere ancora più attenti al fair play, di non accendere gli animi, di evitare esultanze particolari. Ti dirò anche, Gigi, che io mi auguro davvero che Mancini in questo riesca a entrare un po' nella testa dei suoi giocatori, perché tutti voi ricorderete l'esultanza di Adebayor contro i tifosi, nei confronti dei tifosi dell'Arsenal. Sì. Adebayor adesso ha altri pensieri, evidentemente, certo, dopo quello che è successo con Togo, però anche Tevez ha fatto questa cosa. Io non lo so, sinceramente spero che qualcuno parli a questi giocatori per evitare che vadano oltre. Cioè, l'hanno fatto una volta, va bene, basta. È vero. In Inghilterra, rispetto a noi, anche ogni tanto sbroccano, mentre da noi sbroccano puntualmente i dirigenti e gli allenatori, o un allenatore in particolare, in Inghilterra e i giocatori in genere non si lasciano andare a queste cose. In Inghilterra mi pare che accada un pochino il contrario, no? Sì, pure... accade spesso, e anche dobbiamo anche notare una cosa, però, che in un sistema che prevede allo stadio l'assenza di barriere tra il campo e le tribune, con esultanze del genere ci sarebbe da aspettarsi, non dico un'invasione di campo, ma che a qualcuno partano i 5 minuti e che voglia andare a farsi vendetta privata. Sì. Invece quelli che entrano in campo sono solitamente degli idioti che vogliono farsi semplicemente della pubblicità, entrano a volte nudi, a volte con delle scritte particolari. È rarissimo che accada con un... Io ricordo ad esempio quando quel tifoso del Celtic entrò a sbeffeggiare Dida, e Dida fece quella scena memorabile in negativo, gli diede, ma forse non lo toccò nemmeno, insomma sono tutte cose che sono assolutamente da non incentivare, anzi da punire. Però non ricordo uno che sia entrato con una lama o con l'intenzione di fare del male, magari provocato da un'esultanza del genere. Ecco, questo è un punto a favore del pubblico inglese. Poi ce ne sono altri non a favore, ma direi questo è certamente a favore. Senti, a proposito dei giocatori che sbroccano, mi pare che Cristiano Ronaldo domenica, no, dopo due gol sul 2-0 per il Real, partita chiusa, si potesse risparmiare quel gesto. Tra l'altro questa mattina su Marca dice: ogni giocatore sa che quel fallo non era da espulsione. Io penso che ogni tanto, anche quando qualcuno tenta di mettere la toppa, in realtà non faccia altro che allargare il buco. Due cose: credo che Cristiano Ronaldo abbia in sé ogni tanto qualche piccolo blackout che lo porta un po' a specchiarsi troppo anche nella sua virilità e a ostentarla fin troppo. Credo anche che giocatori come lui a volte possano essere capiti, non giustificati, ma capiti, perché prendono un sacco di botte. Sì. Prendono un sacco di botte e vengono molto provocati. Questo non dobbiamo dimenticarcelo mai. Anche chi fischia, chi insulta allo stadio, gli atteggiamenti. Ricordiamoci sempre chi le dà e chi le prende. Ogni tanto quello che le prende perde un po' e gli partono i 2 minuti e succedono queste cose che non dovrebbero mai accadere, ma non dimentichiamoci mai che Ronaldo è comunque un ragazzo che magari è un po' viziato e aiutato dalla società, non parlo di Real Madrid, parlo della società in genere, a considerarsi un impunito e un supereroe, e quindi gli è partita la frizione ed è andato così. A maggior ragione sul fatto che fosse sul 2-0, lui aveva segnato 2 gol, quindi frustrato non poteva essere. Però sai, magari c'è questo che è tutta la partita che ti parla di tua madre, ti parla di tua sorella, ti parla di tua... insomma, dopo un po' io... No, ripeto, non lo giustifico, però il percorso mentale lo capisco, insomma, lo interpreto così. No, sono i cedimenti nervosi, sono all'ordine del giorno. Ronaldo ha commesso quel tipo di sciocchezza grave anche sul 2-0 dopo due gol firmati da lui. Snyder ha lasciato in 10 la sua squadra. Cioè, io trovo paradossalmente più grave quello di Snyder, al di là del fatto che l'Inter fino a quel momento stava veramente stracciando il Milan e quindi ha rischiato di mettere a repentaglio il risultato, e Ronaldo no. Però un conto è prendersela con un tuo avversario e sostanzialmente tentare un combattimento contro un tuo pari. e un conto è andare di isterismo verbale puro, nei confronti puro, dell'arbitro, certo. Puro è un atteggiamento. Comunque, due giornate in Spagna per Ronaldo e due giornate in Italia per Snyder. Chiuderei con il Bayern di Monaco. Se noi ci riportiamo a un paio di mesetti fa, forse persino meno, insomma, a poco prima. Abbiamo già fatto il funerale. Sì, a poco prima del ritorno di Torino con la Juventus, Van Gaal aveva non solo le valigie pronte, ma c'era già la carta d'imbarco fatta, insomma, c'era tutto. Adesso sta il Bayern, oltre ai risultati, sta anche giocando. Il Bayern ha molto migliorato la propria cifra di gioco. Credo che qualcuno abbia, non dico sorriso perché sarebbe una cattiveria, ma insomma, penso che a Monaco di Baviera non ci fosse tutta questa difesa ad oltranza della permanenza di Toni. L'infortunio recente di Toni penso che abbia convinto quelli del Bayern di Monaco che anche le condizioni generali del giocatore fossero tali da non opporsi troppo a un suo trasferimento. Penso che il Bayern di Monaco questa volta, non altre volte, ma questa volta nel passato recente si sia dimostrata una grande società, cioè abbia difeso fino alla fine Van Gaal, abbia capito che quando prendi un allenatore come Van Gaal non gli puoi dare due mesi, non gliene puoi dare tre. Sono abbastanza sicuro che se il Bayern avesse perso a Torino Van Gaal sarebbe stato cacciato, però è anche vero che a volte nella vita ci sono le occasioni. Quella sera il Bayern di Monaco ha giocato una partita perfetta e quelle sono le occasioni di svolta. Non sono convinto che il Bayern di Monaco sia la miglior squadra d'Europa, sono abbastanza certo che il Bayern di Monaco non arriverà tra le prime quattro in Europa, però intanto è tornato ad annusare la vetta della classifica, seppur per sole 24 ore, poi il Bayer Leverkusen lo ha riscavalcato, in Champions è lì e quindi è nella posizione normale del Bayern di Monaco. E certo, e non è certamente in questo momento l'avversario, in questo momento, tra un paio di settimane, quando si riparte, o tre, non è certamente l'avversario ideale per la Fiorentina, tanto meno per la Fiorentina di questo periodo. Sì. Grazie Fabio. A voi buona giornata. Chiudiamo il collegamento sul calcio internazionale con la redazione di Sky Sport e con Fabio Tavelli e vediamo se abbiamo il tempo di ascoltare questa conferenza stampa di Mourinho di vigilia di Inter-Juventus di Coppa Italia che nel frattempo Flavio Suardi ha diligentemente scaricato, come si dice in gergo, e ripartito per argomenti. Sentiamo il primo. In questo momento Ferrara non vive una situazione facile, però in Italia un allenatore che inizia il campionato e finisce il campionato nella stessa panchina non è un allenatore, è un eroe. Io se guardo al momento dove sono arrivato in Italia, quanti allenatori siamo le stesse nella stessa panchina? Non più di 5 o 6, non lo so. Io, Gasperini, Prandelli, Allegri, 4. E questa è una cosa assolutamente incredibile. A me piace qualche volta parlare con il signor Zacchi, quando lui dice che in Italia è molto difficile un allenatore innovare. L'allenatore deve sopravvivere, non innovare. Di chi è la colpa? Non lo so. Dei allenatori non sarà sicuramente, perché allenatori hanno qualità, allenatori sono bravi. Se non hanno tranquillità per lavorare, se non hanno condizioni per innovare, se non hanno condizioni per fare un lavoro in profondità e un lavoro di tanti anni, la colpa non sarà sicuramente degli allenatori italiani che sono allenatori di qualità. Secondo me è perché in Italia c'è troppo soldi in calcio, i club hanno soldi per pagare a 3, 4, 5 allenatori, non lo so. Però è molto difficile essere allenatore in Italia. Se non è la prima, forse è la prima volta che gli darei un 8 anche abbondante a Mourinho per queste considerazioni, per queste riflessioni a voce alta, tra l'8 e il 9, anche perché in quel finale i troppi soldi per pagare gli allenatori, eccetera, c'è anche secondo me un pizzico di ironia che non guasta mai. Sentiamo il resto, che credo, da quel che ho capito, sarà leggermente, anche perché ho un'anticipazione dell'ANSA, credo che sarà leggermente più sapido. Ho ricevuto un altro regalo di compleanno di parte dell'entità ufficiale. L'anno scorso, nel 26 gennaio, mi hanno dato una partita di squalifica. Quest'anno non ho meritato tanto, ho meritato solo questo inquérito, no? Come si dice, questo differimento. E quando c'è differimento devo andare a parlare con le persone. E se parlo con loro non mi sembra corretto parlare con voi. Però nessun problema. Schneider, ti dico, io avevo previsto per lui un turnover, non giocare le partite di coppe. Giocherà domani, titolare, E se la squadra vince e gioca con Fiorentina la prossima settimana, giocherà di nuovo con Fiorentina. Questo non mi piace, preferirebbe ovviamente averlo per Parma e Cagliari. Non è possibile, però io sapevo che c'era una protezione regolamentare alla decisione del signor Roque di espulsarlo. Io sapevo, perché dice che un applauso è un cartellino rosso e due partite di squalifica. Però veramente, dopo ho visto la partita una volta, due volte, tre volte in video, e c'è un momento dove mi sono veramente emozionato, che è al 92esimo, 3esimo più o meno, quando Borriello lo insulta e lui fa con le due mani così alla faccia di Borriello. Mi sono veramente emozionato, perché uno fa così, va via e due partite di squalifica. E l'altro lo insulta di tutto. E li fa così di un modo molto carinoso e non succede niente. È un'immagine di TV veramente, veramente bella. Secondo me stavolta sale al 9. Beh, un'opinione molto molto personale, ma siamo più vicini al 9 che all'8. A Mourinho. L'intervallo, poi ne parliamo insieme, parliamo magari anche, l'avete sentito nel giornale radio, del fatto che la prima serata del Festival di Sanremo avrà come ospite d'onore Cassano. Magari, non so, quell'alluvione di telefonate estive, autunnali che ci hanno travolto e che hanno procurato, anche mi hanno scritto molti ascoltatori allora al tempo, attacchi di orchite, no? Diffusa nell'Italia intera, potremmo magari riparlarne adesso del fatto che, come abbia fatto Lippi fino ad ora a sopravvivere senza Cassano. Possiamo sempre riprendere anche questo argomento se vi fa piacere. Abbiamo ancora dei contributi vocali da sentire, vi avevo promesso all'inizio quelli di Coppa Italia, ma cominciamo a dare spazio anche ai vostri interventi. Da Firenze, Marco per esempio, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Di che? Senta Garanzini, io prima di tutto la volevo ringraziare moltissimo per ieri, per quella cosa che ha fatto con quel signore spagnolo di Barcellona e Nanni. Sì. È una cosa che mi ha commosso moltissimo, devo dire, perché guarda, anche adesso mi vengono ancora i brividi. Io spero che serva a diffondere questo esempio in Italia, perché all'estero queste cose ci sono, queste organizzazioni ci sono, in Italia è una novità. È molto meritorio che sia stata Verona a cogliere questa opportunità, e adesso speriamo si diffonda a macchia d'olio. Sì. Ecco, io l'ho chiamata perché volevo chiedere alcune cose sulla Fiorentina. Cioè, le volevo chiedere, per esempio, secondo lei perché Della Valle è l'unico presidente che non è presente in Lega? Non, mi saprebbe dire qualcosa? No, non le so rispondere, Marco. Non mi intendo in particolare di politica sportiva. Non so se... Non ne ho la mia... Poi non credo sia l'unico presidente però non presente in Lega, nel senso che c'è un direttivo... presente nel senso che non ci va, o questo intende? No, voglio dire, non capisco, perché la Lega deve si prendere decisioni, no? Sì. Cioè, se uno non va in Lega poi viene escluso in qualche modo. Cioè nel fatto che non presenzia, lei dice? Ecco, esattamente, sì, forse non sono stato chiaro. Ecco, perché sennò non riuscivo molto a capire. Non ne ho idea. Non mi sono spiegato bene, ecco. È una strategia societaria, evidentemente, non la condivido, non la capisco nemmeno molto, ma al par suo mi pare, ma finisce lì, insomma. Poi? Sì, ho capito. Senta Garanzini, l'ultima cosa che volevo chiedere, secondo lei, io so che lei considera gli allenatori poco importanti, io in questo la penso diversamente, credo che contino, però non voglio discutere su questo. Volevo chiedere, non crede che Prandelli sia un po' presuntuoso con questo 4-2-3-1, che è una formula che richiede, voglio dire, degli esterni pazzeschi, richiede una squadra sempre al massimo? Cioè, mi sembra uno schema estremamente rischioso per la Fiorentina soprattutto. Difatti i risultati si vedono, mi sembra. Cosa ne pensa? Penso che come tutti gli schemi e come tutti gli allenatori sono validi e funzionano quando la squadra vince, come per esempio con il Liverpool, o in quel momento in cui si qualifica in Coppa Campioni, e poi quando le cose vanno meno bene invece funzioni, invece si ritorca contro di lui. Non è vero che non do importanza agli allenatori, penso però che il loro ruolo oggi in Italia, la loro importanza sia sopravvalutata rispetto a un tempo, che non vuol dire non dar loro importanza, vuol dire magari ridimensionarla rispetto a vecchi discorsi. Insomma, io sono più un riveriano in questo, quando Rivera ha sempre sostenuto che gli allenatori contano, certamente contano, ma meno di quanto non si voglia far credere, a meno che non sia, aggiungeva Rivera perfidamente, per far danni. Allora di danni ne possono fare davvero di rilevanti. Ecco, io sono un po' di quella scuola, ma non c'è controprova se è più giusto valutarli o non valutarli. Certo, quando io leggo, faccio un esempio legato a domenica scorsa, Mourinho contro Leonardo, e quando vedo che il derby viene presentato così, per esempio, non ridisco, perché il derby è l'Inter contro il Milan, e l'Inter ha in panchina uno e il Milan ha in panchina l'altro, ma in campo sono sempre andati e andranno sempre i giocatori, per fortuna. Angelo chiama dalla provincia di Napoli. Sì, ciao, sono Angelo, faccio un intervento rapido. Voglio dire questo, volevo avere una sua riflessione sul mio pensiero, cioè vale a dire, non capisco perché il calcio, che oramai a livello di credibilità riguardo alla regolarità dello svolgimento del campionato e di partite anche a livello internazionale, sta solo un punto sotto, solo il ciclismo, nel senso che diciamo gli scandali si susseguono a ripetizione, non cerchi di mutuare, diciamo, da altri sport, in particolare dagli sport che si svolgono negli Stati Uniti, quelle che sono delle regole basilari che permettono a quegli sport, sia pure anche loro con delle difficoltà, di avere un minimo di credibilità, in particolare la prova televisiva e altri provvedimenti, salary cap e quant'altro, che consentirebbero lo svolgimento di un campionato almeno sotto il profilo della regolarità dello svolgimento delle singole partite dignitoso. Basta vedere una di qualsiasi partita di NFL, faccio un esempio, dove si muovono milioni e milioni di dollari, penso il quadruplo, non so, 10 volte quelle che si muovono in Italia, dove si interrompe il gioco e viene spettacolarizzato il momento di interruzione, così come anche nel tennis, dove io ho visto un magari dei Masters, dove per esempio a Bercy, a Parigi, si sentiva quando entravi in azione il falco il rumore della batteria che, diciamo così, enfatizzava il momento, non era una noia come era un momento di divertimento in più, un momento esaltante rispetto a quella che era la partita, che già di per sé era, diciamo, entusiasmante, e l'entusiasmo cresceva. E nella più c'era la batteria sul falco, un momento leggendario, indimenticabile della storia dello sport, difatti. Grazie Angelo, andiamo a Ferrara da Giovanni, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Gigi, io niente, ho assistito alla conferenza di Mourinho, sì, e quello che mi fa specie, forse nell'iperbole, Gigi Garanzini avrà voluto fare una... non un commento positivo, ma forse sicuramente una allusione molto diversa da quello, dal 9 che gli hai dato. No, confermo 9, cioè secondo me è stato strepitoso. La differenza tra il Mourinho di domenica sera e questo Mourinho è la stessa differenza che corre tra Prisco e Paolillo, dal mio punto di vista. Oggi Mourinho era Prisco, l'ho trovato splendido, perché è ironico, perché è graffiante, perché è sottile, perché è provocatore, ma in un modo gradevole, accettabile e a parer mio anche molto divertente. Prisco, ripeto, Jekyll e Hyde, questo era Prisco, quello di domenica sera era Paolillo, con tutto rispetto, non mi sembra un riferimento lusinghiero, no? Credo che la differenza credo che insomma l'Inter non smetterà di rimpiangere non dovrebbe smettere di rimpiangere una persona dello spirito dell'ironia e del gusto per la battuta sottile dell'avvocato Prisco. Oggi mi è sembrato di risentirlo in Mourinho, quindi cioè, poi a lei può benissimo non essere piaciuto. Prisco non piaceva a molti, io l'ho sempre apprezzato moltissimo, ne ho anche nostalgia e oggi ne ho risentito degli accenti in Mourinho. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Dica. Volevo la sua opinione su questo, siccome io sono milanista e con i miei amici tutti ci siamo chiesti il perché nel secondo tempo, visto che eravamo sotto di un gol ed eravamo anche 11 contro 10, Leonardo non ha sostituito un centrocampista con, io penso, Pippo Inzaghi che è più in forma, o un Unter, comunque un'altra punta, e invece ha messo dentro Seedorf. Secondo me, siccome nessuno l'ha fatto notare nei giornali, nelle TV, a parte Mourinho che ha detto meno male non hanno messo dentro Inzaghi, però secondo me mi sembra un errore madornale di Leonardo e nessuno ne ha mai parlato, nessuno, non ho visto sul giornale un mea culpa su questo, su questa cosa che secondo me è logica, perché Mourinho di sicuro a parte invertita avrebbe messo dentro quattro punte, noi giocavamo con una punta in realtà. Volevo sapere la sua opinione su questo, su questa questione tattica, diciamo. Ma io, cioè, con tutto il rispetto per Marco da Milano, penso che Leonardo di pallone ne mastichi ancora di più, ma anche di Gigi da Biella o da Monforte d'Alba, che sarei io, insomma, a scelta sua, o da Milano a sua volta se crede, a mia volta se crede. In quel momento ha interpretato la partita così, ha pensato all'aggiramento, al palleggio, all'1-2, alle combinazioni volanti per entrare, più che non allo sfondamento. Insomma, Inzaghi era stato, Inzaghi va per i 37, no? Ecco, con tutto rispetto, qualcosa vorrà pur dire. Untelar ha avuto un minuto e mezzo, forse due minuti straordinari a Catania, non ricordo altri momenti magici. Mi pare che Leonardo creda al Milan, creda alle potenzialità del Milan attraverso il gioco più che non attraverso gli assalti, esattamente il contrario di Mourinho, che crede più alle potenzialità dell'assalto, no, che non a quelle della manovra piacevole, della manovra elegante, legata, cucita. Sono punti di vista e e come tutti sono opinabili, evidentemente. C'è un napoletano, Stefano, buongiorno. Io Garanzini, buon pomeriggio. Volevo una sua opinione in merito all'esultazione del signor Mourinho di domenica scorsa. Io le dico, da buon napoletano, a me sta cosa mi ha dato proprio fastidio. Non c'ho niente contro gli interisti, però l'esultazione quel signore a me mi ha dato un certo senso di rabbia. Lei come la vede? Vedo che Mourinho domenica ha esagerato, che Mourinho domenica, l'ho appena detto, era in versione Paolillo, oggi che era, credo per la prima volta, per una delle primissime, in versione Prisco, l'ho apprezzato, quello che abbiamo appena sentito, l'ho apprezzato molto, ma molto di più, mi sembra di tutta un'altra levatura e di tutta un'altra classe, anche perché poi, per uno che l'italiano l'ha imparato un anno e mezzo fa, insomma, è un altro che non come Leonardo, ma è un altro che della nostra lingua si è impadronito bene, anche delle sfumature che gli permettono per l'appunto quegli accenti ironici. Quando invece fa il capopopolo rivoltoso come domenica, sinceramente, dal mio punto di vista è inguardabile. Poi naturalmente anche qui non pretendo assolutamente di orientare dei gusti o delle scelte che sono opinabilissimi. Mi ha abbastanza colpito stamane il titolo della prima pagina sportiva, insomma della copertina sportiva del Corriere della Sera, che è il grande silenzio, il Milan taglia i ponti con l'Inter, i rapporti non saranno più gli stessi. Perché sono cicliche queste cose, sono splendide. Arriva un certo punto in cui una delle due società, o tutte e due, in qualche maniera si esagera e i rapporti si incrinano. Poi però arrivano i momenti del plusvalenze e allora io sono convinto che questo grande freddo o grande gelo, come è già accaduto spesso in passato, anche a queste dirigenze, vedrete che queste diatribe si superano poi, se c'è da Se c'è da valutare o ipervalutare dei giocatori. Tanto vale tornare a ripassare la storia. Beh, la storia del 27 gennaio è un ripasso molto impegnativo, che va molto al di là di quello che facciamo noi nel nostro piccolo. Però nel nostro piccolo è giusto continuare a farlo. Sentiamo Nicola Filippone. Sembra ieri. 27 gennaio 1974. Il brasiliano Emerson Fittipaldi, alla prima stagione in McLaren dopo aver lasciato la Lotus, trionfa nel Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos, precedendo il ferrarista Clay Regazzoni. Nel corso della stagione, Fittipaldi, a bordo della M23, si aggiudicherà altri due Gran Premi e riuscirà a vincere il suo secondo mondiale, piegando la concorrenza dei ferraristi Regazzoni e Lauda e di Jody Scheckter. Tocca ad Alberto, ha chiamato da Treviso, buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo fare un allarme, dire una cosa che secondo me è importante. I giocatori di calcio devono smetterla, secondo me, di ingannare gli arbitri. Parlo da interista, perché io sono interista, ma quello che ho visto domenica al derby, bellissima partita. Però mi chiedo se Schneider in Spagna faceva quello, se Lucio in Germania faceva finta sempre di cadere. Gli arbitri non sono aiutati e dovrebbero essere i giocatori un po' più responsabili, e quindi si eviterebbe delle grossissime polemiche. So, Alberto, tanto avanti. Questa è una vecchia utopia, ma paura che non ci arriveremo mai. Che non abbiamo in Italia. Ma non solo. Uno dei tumori che sta rovinando il calcio italiano. Ma non è solo Italia, non è solo un problema italiano questo, comunque. Il problema di perché se parliamo di simulazione pura, allora siamo abbastanza d'accordo. Se parliamo di accentuare, caricare gli effetti e recitare un pochino, è un problema universale che riguarda anche gli inglesi. Chiedere l'ultima cosa, che io sono stato impressionato, la seguo sempre, spesso, un anno fa, da un intervento di Cagne, e ho detto: ma perché il signor Garanzini non fa parlare più gli addetti ai lavori e il popolino, il quale sono anch'io, ascolta e impara cosa vuol dire quando Cagne, mi ricordo sempre che ha detto che sulle punizioni o prima di uscire dagli spogliatoi i giocatori si guardano i capelli. Tutto qua. Lascio al suo lavoro. Grazie Alberto. No, ma perché è giusto un mix, secondo me, è giusto sentire ogni tanto qualcuno che ti arricchisce con le sue esperienze, con gli spunti, con quello che può raccontare, ed è giusto invece confrontarsi anche con le opinioni di chi fruisce di questo spettacolo, chiamiamolo come vogliamo, e per tastare il polso, per sentire come lo vive e che cosa ne pensa. Questa è la formula, questo è il mix, poi possiamo di volta in volta la si tara e la si aggiusta. Sentiamo come Ranieri ha vissuto questa qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Sapevamo che il Catania si sarebbe difeso con tutti i suoi effettivi, avrebbe provato a ripartire in contropiede, è tipico del gioco del Catania. Siamo stati molto bravi, molto attenti, facevamo girare palla, non siamo riusciti a concretizzare tutte le opportunità che abbiamo avuto. Temevo il Catania, per questo ho dato poco ricambio a chi è abituato a giocare. Era importante andare avanti, entrare in semifinale, l'abbiamo fatto e sono molto contento. Francesco Firenze, io sto continuando ad aspettare interventi di Cassagnani a oltranza, ma al momento latitano. Francesco, dica, buongiorno. Sì, buonasera Garanzini. Sì. No, l'intervento volevo farlo se a sua opinione non sia il caso di responsabilizzare un po' più i giocatori. Faccio riferimento all'espulsione di Schneider, a quello che si diceva dei giocatori inglesi. Ricordo qualche anno fa nell'NBA un giocatore americano prese a pugno in faccia uno spettatore perché insultava la moglie. Le giornate di squalifica furono 90, se non sbaglio, e la decurtazione immediata dello stipendio calcolato per ogni partita che non ha giocato. Della serie, smettiamo di trattarli da bambini, sono professionisti, sono pagati da professionisti, che si comportino come tali. Questa è un po' la mia opinione da amante del calcio. Concludo un po' disincantato. Ieri sera ho visto una trasmissione dove è riapparsa una faccia che credevo fosse scomparsa dalla faccia della terra. Una volta si diceva che nessuno è colpevole finché non è considerato e giudicato tale. A questo punto mi sembra che anche quando sono giudicati tali siano comunque capaci di essere riabilitati. Credo che il mondo del calcio sia proprio arrivato alla fine. Ma dipende, dipende sempre dai pulpiti su cui vengono riabilitati e quindi e da lì deriva il concetto di riabilitazione, che mi sembra poi abbastanza soggettivo, no? Se è d'accordo. Non so a chi si riferisca, sinceramente, perché l'allusione, trattandosi di argomento televisivo, per uno che la TV non la guarda, se non è strettamente una partita di calcio, l'allusione per me, sto dicendo, è un po' criptata, però insomma, posso anche tirare a indovinare, insomma, e non ha molta importanza. Paolo, provincia di Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Sì. Solo una domanda per lei, sì. Nel senso che volevo che se era possibile che mi spiegasse brevemente la differenza tra il caso Ledesma e il caso Pandev. Come mai Pandev sì, Ledesma no, ed è addirittura adesso si parla che potrebbe essere rivista anche la sentenza su Pandev. No, non credo proprio questo. Credo che cioè questa è una domanda che va rivolta ai due giudici e dato che i giudici in genere non rilasciano interviste esattamente come gli arbitri, o comunque non dovrebbero, credo che si tratti di leggere le motivazioni della sentenza. In un caso, evidentemente c'era qualche differenza, qualche sottigliezza, sicché in un caso è stato dato ragione al giocatore, nell'altro caso è stato dato ragione alla società. Non chieda però a me, sinceramente, non chieda una sottigliezza del genere, ripeto, facciamo gli spogliatoi dei giudici che hanno preso questa decisione. Io non sono assolutamente in grado, tutto quello che posso fare è provare a girare il quesito a Marco Bellinazzo. In fondo domani è giovedì e questa è un altro paio di questioni, potremmo anche provare a porgergliela. Walter ha chiamato da Pesaro, buongiorno. Buongiorno, io riprendo un po' il discorso che ha fatto un signore di Milano su Inzaghi, però un po' più ampio, in questo senso. Io dico, il Milan ha gli stessi punti dell'Inter, esclusi quelli del derby, punti del derby, vincendo a Firenze, no? Qualcosa, vincendo a Firenze, eh? Sì, vincendo, ovviamente. Qualcosa mi sembra che non vada nel corpo a corpo, quando si trovano a tu per tu. Io penso che sia la differenza dell'allenatore. Mourinho incide, carica i suoi, ha mandato subito la squadra all'attacco nel punto debole del Milan, nel centro della difesa perché mancava Nesta, ha impaurito la squadra, è stato un grosso psicologo. Leonardo ha risposto col solito copione, la solita musica. Io sono d'accordo con lei che Leonardo ha una filosofia diversa, cerca il gioco, ma quando il gioco non va o non te lo fanno fare, bisognerebbe essere talmente umili di cercare alternative. Cioè lì c'era solo da mettere Inzaghi, che faceva il gol di Rapina, che è uno specialista. Senta, e lei dice che è vecchio, ma a Marsiglia qualche mese fa ha fatto un gol pesante. Io le faccio un'altra controdeduzione. Se le dicessi che la squadra di cui può disporre Leonardo vale la metà di quella di cui può disporre Mourinho, lei più o meno come la, soprattutto se non onesta, lei come la prende? Ma non è vero che vale la metà, no. Perché hanno gli stessi punti in classifica. Mi scusi, no, una cosa. Ho capito, no, era solo per demolire la sua teoria secondo cui uno dei due allenatori è un genio e l'altro è un cretino. Cioè, io trovo che Leonardo abbia fatto sino a qui delle cose mostruose addirittura. Era 1-0, è rimasta in 10 solo gli ultimi 10 minuti. L'Atalanta ha pareggiato. Non credo che l'Atalanta sia più forte del Milan. No. Forse c'è qualche astuzia in più che Leonardo in certi momenti non usa. È un allenatore che ha raddrizzato il Milan, tanto di cappello. Però nel corpo a corpo con Mourinho lì volevo arrivare. Perché l'altro ha giocato di psicologia, ha impaurito il Milan, addirittura Schneider è influenzato, debolissimo, ha fatto l'ira di Dio, ha giocato con tre punti. Ma lei, da, poi, lei scusi, da... mi scusi una cosa, dottor Garanzini. No, le scuso ancora l'ottava, dica. C'è sempre nel Milan, ma nel Milan c'è Calalze. C'è addirittura che ha vinto la Coppa dei Campioni Calalze. C'è addirittura ma anche Inzaghi ha vinto la Coppa dei Campioni, Bonera, Sì, no, ma lei sta parlando della, no, adesso non mi faccia essere sgradevole a parlare di Baggina, ma lei mi sta parlando di passati gloriosi, ma non mi sta parlando di presente e tantomeno di futuro. Ma soprattutto Walter, è quello che dicevo prima. Lei è uno di quelli che, suggestionati dai giornali per comodità di titoli, pensano che le partite siano Mourinho contro Leonardo oppure Ranieri contro Mazzarri, oppure le partite sono una squadra contro l'altra e gli allenatori devono essere bravi a valorizzare quello che di buono hanno e altrettanto bravi o forse di più a minimizzare quello che hanno di negativo, ma non giocano l'uno contro l'altro come lo interpreta lei il calcio, fermo restando che 60 milioni di commissari tecnici lo sono altrettanto di allenatori. Vi ricordo brevemente che il nuovo sito di Radio 24 www.radio24.it, ha più audio, più notizie, più contenuti, compreso il riascolto della puntata che avete appena finito ad ascoltare. Grazie a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanida, con Flavio Suarni in redazione. Buon pomeriggio.